Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, facciamo un salto indietro nel tempo. Apriamo il frigorifero di 25 anni fa per scoprire com'è cambiata la spesa delle famiglie italiane. Parliamo poi di libri in vendita nei distributori automatici, ultima scommessa della distribuzione, e per il focus sui trend di self-style. Chi fa da sé fa tendenza. Per iniziare, come sempre, le notizie e curiosità della settimana. Dopo quella firmata da Christian Lacroix, è Jean-Paul Gaultier il designer della nuova bottiglia dell'acqua minerale Evian. Lo stilista più surreale e onirico del panorama internazionale ha realizzato due versioni, una delle quali in soli 7 esemplari, che sarà battuta all'asta per beneficenza. In vetta per arte e cultura, seconda per storia e quinta per affari, l'Italia si piazza quarta, prima in Europa, nel Country Brand Index 2008, lo studio che classifica i paesi visti come brand. Al primo posto della top 10 l'Australia, al secondo il Canada e al terzo gli Stati Uniti. Stanno per essere sperimentati in alcuni ristoranti in tutta Italia i due contenitori biodegradabili Salvavino e Salvacibo, firmati Slow Food e Comieco, il consorzio per il recupero di carta e cartone. Dopo ombrello e bombetta, cade un altro simbolo della City, il gessato. Secondo il mensile Tatler, bibbia dell'eleganza British, quella che fino ad ora era considerata l'uniforme di banchieri, avvocati e broker, è fuori moda. Per festeggiare l'apertura del suo 500° punto vendita, Lidl offre ai 500 vincitori del concorso Un minuto di spesa gratis la possibilità di correre all'impazzata per un minuto tra le corsie di uno dei suoi supermercati e riempire il carrello il più possibile. Tutta la spesa alla fine della corsa sarà gratis. Attillatissimi e lucidissimi, in pelle o materiale sintetico, rigorosamente neri, arrivano i treggings, una via di mezzo tra trousers, pantaloni e leggings, i fuso di ultima generazione. La borsa della spesa. Cosa mangiavano gli italiani nel 1983? Nel loro frigorifero non mancava mai la carne, simbolo gastronomico dell'epoca. C'era molta frutta e verdura, ma poco pesce. E in dispensa meno pane e pasta rispetto ad oggi. E poi cominciavano a viaggiare e a godersi cenette al ristorante. Federalimentare, la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare, ha voluto scoprire com'è cambiata la nostra shopping bag negli ultimi 25 anni. Meno carne e alcolici, più pesce, pane, pasta e cereali. Questa è la fotografia dell'evoluzione della spesa alimentare degli italiani dal 1983 ad oggi. Scopriamo così che, pur rimanendo la prima voce di spesa, nel nostro frigorifero ci sono molte meno fettine, costate e arrosti, il 22% rispetto al 33% di 25 anni fa. Raddoppia invece il peso del pesce, che passa dal 3% al 6%. La spesa per le bevande alcoliche scende dal 7 al 5%, superata da quella per acque minerali, bibite e succhi, che con 6 miliardi e 673 milioni di euro rappresentano quasi il 6%. Più spazio in dispensa, dal 10 al 18%, per pane, pasta e cereali, mentre scende, ma di poco, quello per frutta e verdura, dal 18 al 16%. Siamo sempre più golosi. Zucchero, marmellata, sciroppi e cioccolata salgono dal 4 al 6%. Rispetto al totale dei consumi, la quota del budget familiare destinata alla spesa alimentare scende dal 26% al 17%. E se 25 anni fa mangiare fuori casa assorbiva solo il 16% del budget alimentare, oggi invece pranzi al bar e cene al ristorante coprono una quota del 32%, il doppio. A livello nutrizionale siamo passati ad un consumo più consapevole, da 3.000 a 2.200 calorie. L'altra grande trasformazione riguarda i canali di vendita. Oggi la grande distribuzione rappresenta il 70% del mercato contro il 10% del 1983, quando i negozi di quartiere coprivano il 90% della spesa degli italiani. In 25 anni il numero dei supermercati è cresciuto di 5 volte, quello degli ipermercati di 30. Grande sviluppo della grande distribuzione dunque, ma anche dei prodotti. Basti pensare che 25 anni fa un supermercato aveva 300 referenze, oggi ne ha 2000 prodotti su cui scegliere. Per i piccoli negozi c'è però una chance interessante, quella della qualità, ci dice il direttore generale di Federalimentare Daniele Rossi. A fianco dei grandi superfici di vendita, dei supermercati e degli ipermercati, stanno uscendo delle catene o delle linee di negozi specializzati, delle boutique dell'alimentare, che possono valorizzare sia la qualità che il prodotto locale. Quindi grandi marche che seguono una linea più moderna nella grande distribuzione, piccole marche e medie marche locali che invece puntano, oltre che alla qualità, e anche a una distribuzione tradizionale di piccoli punti vendita. Il consumatore ha bisogno di entrambe le soluzioni, ha bisogno della spesa tutti i giorni, della spesa settimanale e anche della spesa di qualità per le ricorrenze anche a casa. Pronto, etnico, salute. Queste le tendenze emergenti che ci rivelano come sarà il carrello del futuro. Il carrello del futuro sarà fatto a strati. Una base media di prodotti standard, una base di prodotti più ricercati e una base sorprendente di prodotti di lusso e di prodotti etnici. Attenzione a diversi pubblici, alle esigenze degli sportivi, alle esigenze delle persone anziane, alle esigenze dei giovani e dei ragazzi o anche delle persone che hanno delle allergie, dei problemi di salute, per avere pubblici specifici per prodotti specifici. Cambiamo argomento, si aprono frontiere inaspettate per le vending machine, le macchinette per la distribuzione automatica, non più solo merendine, come ci racconta Luigi Rubinelli, direttore di Markup. La distribuzione automatica è un nuovo canale che macina successi. Nuovo perché gli attori che intervengono sono adusi a ben altro. È il caso della distribuzione del latte crudo, che ormai avviene a bordo strada, vicino ai centri commerciali, ma anche nelle stazioni della metropolitana. È un'iniziativa che vede in prima fila Coldiretti. Anche Conad sta testando con un distributore nel quartiere universitario di Bologna questa formula. C'è poi un nuovo modo di vendere libri. È iniziato il gruppo Cremonini che, come tutti sanno, si occupa di macellazione ma anche di ristorazione di ingrosso alimentare. Ha inserito una ventina di distributori automatici di libri appunto nelle stazioni ferroviarie e in quelle della metropolitana, grazie a una società del gruppo. 5.000 libri venduti in 6 mesi. I titoli sono quelli nella cima più alta delle classifiche, cioè il distributore Cremonini in questo caso vuole viaggiare sul sicuro e non si cura di dare un servizio accurato come le librerie tradizionali che hanno librai con una cultura enciclopedica. Il libro, grazie ai distributori automatici, si trasforma così in un prodotto d'impulso, come se fosse la Nutella o le caramelle Golia. Si riuscirà in questo modo ad innalzare la lettura dei libri che non brilla in Italia per frequenza? Una cosa è certa, si è creato un altro canale di vendita per questo genere di libri e, visto che le librerie hanno un orario di vendita, passeremo presto davanti alla Mondadori o alla Feltrinelli e potremo comprare un libro anche alle 3 di notte grazie proprio alla distribuzione automatica. Mai più senza. Conosciuta come la rossa portatile, esposta al MoMA di New York fin dagli anni 70, qualcuno avrà già indovinato. È l'oggetto cult della settimana che ci svela Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum. Nata in un contesto storico caratterizzato da rotture epocali nel campo politico, sociale, artistico e di costume, Valentine si caratterizza da subito come una macchina da scrivere portatile, innovativa e trasgressiva rispetto alla linea classica e tradizionale creata in precedenza da Olivetti. L'idea generale è che ormai una portatile non è più un oggetto speciale, ma uno strumento qualunque di tutti i giorni, come se fosse una matita, una biro o qualcosa del genere, scrive Sotsas su Domus nel giugno del 1969. Nata in contrapposizione al carattere chic ed elegante della lettera 22, Valentine, di Ettore Sotsas per Olivetti, si configura da subito come prodotto popolare. Dalla linea del design alla strategia di comunicazione, tutto concorre a marcare la differenza. La lettera 22 nella campagna pubblicitaria appare tra le mani di una ricca e raffinata signora in procinto di scendere da un aereo. La Valentine invece è collocata in mezzo a un gruppo di bambini che giocano a calcio. Per quanto riguarda il design, Valentine si dota di una scocca in ABS lucido, con due manopole per l'avvolgimento del nastro di scrittura di colore giallo e una maniglia per essere trasportata. Per gli spostamenti è dotata di un guscio scatola sempre in ABS rosso-arancio per proteggerla da qualsiasi colpo. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di self-style. Chi fa da sé potrebbe essere il titolo di questa puntata. Parliamo cioè di autoproduzione, autogestione, condivisione e scambio di prodotti e servizi. È una tendenza che attraversa molte categorie di consumo, dal cibo al giardinaggio fino alla cosmesi e al fitness. Ma oggi da soli si può anche produrre energia e costruirsi la casa con i cantieri sociali, parole d'ordine, homemade e bricolage, tra i pochi settori in crescita in questo periodo. È un nuovo modo di consumare, più consapevole, in questo la puntata di oggi è in qualche modo la naturale conseguenza di quella precedente dedicata al consumo critico, un modo di consumare, dicevamo, che diventa uno stile di vita. Patrizia. Il self-style, al di là del risparmio economico come effetto, diciamo, secondario dell'autoproduzione e dell'autogestione, è interessante perché esprime una dimensione del consumo legata alla voglia sempre più diffusa di imprimere un nostro marchio distintivo alle cose di cui ci circondiamo. È una sorta di voglia di dire l'ho fatto io e a modo mio. Infatti sono interessanti i casi di personalizzazione nell'autoproduzione. IkeaHacker.blogspot.com è un blog dove i clienti IKEA, paradigma diciamo del fai da te, caricano le foto di come hanno modificato la destinazione d'uso dei pezzi base IKEA, trasformandoli in oggetti che sono altri, quindi generando uno stile personalissimo, per esempio con 5 mensole LAC, farsi un tavolino, usare un piano cucina per una scrivania, eccetera. Questa voglia di diventare un po' un brand riguarda anche i consumi culturali. Sempre più videogiochi in cui inserire parti originali creati dai giocatori stessi, e il caso interessante del cartone animato Odd Job Jack, attualmente in onda su Comedy Central, che racconta tragicomiche giornate di un giovane lavoratore atipico. Lo segnalo perché la casa di produzione canadese ha lanciato Free Jack, un sito da cui scaricare l'artwork, diciamo, completo del cartone animato per i fan che a questo punto possono crearsi la propria storia. Da segnalare il protagonismo crescente delle donne nel mondo del fai da te. In Olanda, da una delle più grandi catene commerciali di accessori per la casa, Carvai, la produzione di Ziezo, un magazine gratuito trimestrale per donne che si mettono all'opera in lavori in casa ma veri, duri, come ristrutturare il bagno o risistemare l'arredamento o cambiare la carta da parati. Un altro caso singolare di homemade dal punto di vista, in questo caso, del soggetto produttivo, il collettivo di 15 nonne svizzere che vende online calze fatte a maglia. Dal sito netgranny.ch è possibile scegliere addirittura quale nonna realizzerà le calze e il colore che vogliamo. E il fai da te, il bricolage versione maschile, femminile o old young, come dicevi tu Patrizia poco fa, conosce una nuova giovinezza. Ecco i numeri del boom. Il bricolage sfonda il tetto dei 10 miliardi di fatturato. Rappresenta quasi il 10% del totale dei consumi non alimentari. La crescita è costante, più 2% nel 2007. E le anticipazioni sul 2008 lasciano ben sperare. I punti vendita in Italia sono 1800, in salute soprattutto le grandi catene specializzate. Le principali, Brico Center, Leroy Merlin, Castorama e Obi, sono di proprietà straniera, dove i clienti vanno, comprano, chiedono e scambiano consigli. Secondo una ricerca di Indicod ECR, il gap tra i bricolori italiani e quelli europei sta sensibilmente diminuendo. In crescita risultano soprattutto il giardinaggio e i materiali per il tempo libero. Patrizia, si arriva a parlare di consumatore autarchico, facendo riferimento proprio al concetto di autosufficienza economica. Un'utopia, un'estremizzazione, che cosa? Ma assistiamo a dei comportamenti ben precisi che legittimamente oggi ci fanno parlare di consumatore autarchico. È semplicemente un modo per dire che ci si fa tutto quello che si può autonomamente a prezzi quindi inferiori rispetto a un acquisto. Quindi il pane fatto in casa, per esempio, abbiamo visto che le vendite delle macchine che impastano e cuociono sono aumentate, ma anche lo yogurt e i dolci per le feste di compleanno, parlando di cibo, ma poi anche la palestra in casa con risparmio sull'abbonamento, fino a servizi quali l'asilo per i bimbi. Pensiamo alla diffusione della formula mitteleuropea Tagesmutter, mamma di giorno alla lettera, quindi mamme e babysitter multiple che ospitano e assistono gruppi di bambini in casa, nelle case private. Per non parlare di cerette, tinte per capelli o parrucchiera a domicilio e trattamenti estetici vari che, se fatti in casa, incidono notevolmente sul bilancio familiare. Anche sul fronte energetico, l'autarchia è un concetto che sta diventando centrale. La tendenza è all'autoproduzione dell'energia necessaria per i consumi domestici accanto alla riduzione dei consumi stessi. Anche qui il fai da te consente di contenere ulteriormente le spese, come nel caso dei pannelli solari autoinstallati o come nel caso di nuove creazioni di designer anche molto noti come Philip Stark, che ha creato un mulino a vento domestico per produrre l'elettricità. E da qualche tempo è possibile fare la spesa direttamente nei campi delle aziende agricole, raccogliendo personalmente dalla terra o dalle piante, a seconda delle stagioni, verdura e frutta. Si lavora all'aria aperta, ci si diverte magari con la famiglia durante il weekend e si risparmia perché i prezzi sono molto vantaggiosi. Si chiama Pick Your Own, è una novità per l'Italia, ma negli Stati Uniti è una realtà consolidata, è un'iniziativa della Coldiretti che è diventata una vera e propria moda. Per saperne di più abbiamo in collegamento Massimo Antonini, proprietario di un'azienda agricola a Trevignano in provincia di Roma, dove si può fare questa sorta di spesa self-service. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che cosa si raccoglie in questo periodo? Noi seguiamo molto la stagionalità dei prodotti, quindi in questo periodo ci sono verdure invernali, verdure, cavolfiori, finocchi, broccoletti, insalate invernali. Insomma. Chi viene principalmente? Sono famiglie, amici? Qual è l'utente tipo? E sono tutte, dalle famiglie ai single, c'è di tutto. Quanto si risparmia? Generalmente il risparmio va dal 30 al 40%. Ci racconta qualche aneddoto? Si creano, immagino, anche situazioni particolari, divertenti? Ma sicuramente situazioni particolari divertenti ce ne sono moltissime, soprattutto quando il consumatore viene per la prima volta nell'orto. Già il fatto di cogliersi la verdura da solo è una cosa che lo manda veramente in delirio. Una signora una volta, tanto la presa dalla passione di cogliersi le verdure, si è portata a casa 30 kg di pomodori. Oltre questo anche tanti bambini che vediamo vanno loro direttamente a cogliere i pomodori, le melanzane, tutto ciò che è da cogliere con molto entusiasmo. Quindi è molto divertente sia per loro e è molto conveniente per noi. Grazie a Massimo Antonini per essere stato con noi. Grazie a voi e a presto. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a San Francisco su Self Style e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Mimi. Elena Marinoni, bentornata, che cosa ci racconti? Buongiorno, un saluto a tutti. Sì, tutto iniziò come una burla quando, ed era il 2006, la visual artist Stephanie Siuco si chiese: perché non tentare di riprodurre fedelmente una borsa di marca, ma all'uncinetto? Da provocazione individuale, questa sfida ha poi raccolto nel tempo un nutrito numero di adesioni da parte di patiti e patite dell'uncinetto in tutto il mondo, che si sono applicati a questa operazione di hackeraggio dell'alta moda. Tutto è confluito in un sito, thecounterfeitcrochet.org, e oggi vanta la dignità di un progetto artistico collettivo. Come funziona? Primo passo, scegli una qualche celebre borsa di marca, quindi si procede con la sua autoriproduzione all'uncinetto, stando attenti ad aderire il più possibile all'originale. Infine si spedisce il manufatto, in gergo il bootleg, a Stephanie, che lo includerà nella mostra itinerante, che partita da San Francisco ha già toccato Manila, Pechino, Istanbul. Il fatto a mano, che era un tempo considerato un fenomeno un po' vetero-provinciale, trascende quindi nelle intenzioni dell'artista è un mero esercizio di stile, si fa piuttosto portavoce di un'istanza quasi ideologica, una riflessione sulla globalizzazione, sulla dialettica tra brand e non brand, tra produzione di massa e pezzo unico, tra aspirazionalità e accessibilità. Grazie Elena. Patrizia, dunque, quali chance di sviluppo e di trasformazione diamo a questo trend? Visto lo scenario dei prossimi anni, possiamo prevedere che il consumatore autarchico certo autoprodurrà sempre più ciò che gli serve, ma soprattutto continuerà la sperimentazione di quelle strategie di consumo alternative che già oggi pratica, quindi dai gruppi di acquisto di prodotti alimentari con effetto economia di scala fino al baratto di servizi e di tempo, soprattutto come nel caso delle banche del tempo. Essere avere @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.